Quindi buonasera a tutti e benvenuti di nuovo. Questa è la sesta lezione, se non mi sbaglio, del seminario per una genealogia del soggetto. Quindi oggi riprendiamo, io andrò a concludere, anzi a essere più precisi, andrò a concludere le parole e le cose in maniera piuttosto rapida, che è stato l'oggetto dei due precedenti appuntamenti, e poi cercherò di lasciare la parola ad Antonio Caronia qui al mio fianco nel più breve tempo possibile, perché la lezione di oggi dovrà essere dedicata all'archeologia del sapere, testo successivo alle parole e le cose nella produzione foucaultiana, e sarà un momento fondamentale nel passaggio da un percorso che abbiamo fatto sino ad ora di analisi quasi storica, conseguenziale dei testi di Foucault, a un momento in cui si inizieranno ad acquisire degli strumenti, se si può dire in questa maniera, di metodo. Quindi vado subito al punto, al cuore della questione. La volta scorsa stavamo vedendo la seconda parte delle parole e le cose. Avevamo ripercorso tre momenti fondamentali, che sono l'analitica della finitudine, che sono l'allotropo empirico trascendentale, si era iniziato, anzi senza esaurirlo, il cogito l'impensato, terzo paragrafo. Riprenderei dall'ultima parte proprio di questo paragrafo, perché in queste pagine, mi riferisco alla pagina 350 dell'edizione Rizzoli che avevamo citato la volta scorsa, c'è un paragrafo che è probabilmente il confronto più serrato all'interno di questo libro tra Foucault e la fenomenologia. E quindi vorrei ripartire esattamente da questo punto. Ricordo, il capitolo è dedicato al cogito all'impensato, qua troviamo un'analisi foucaultiana della fenomenologia, oppure una riflessione, meglio dire foucaultiana, sulla fenomenologia. Vado a leggere. Può sembrare che la fenomenologia abbia congiunto l'uno all'altro il tema cartesiano del cogito e il motivo trascendentale che Kant aveva desunto dalla critica di Hume. È vero, due grandissimi interlocutori di Husserl. Da un lato il pensiero cartesiano, il tema cartesiano del cogito, dall'altro il tentativo di Kant di risolvere le aporie humeane, il fascio di sensazioni che costituirebbe il soggetto di Hume. Husserl avrebbe in tal modo ravvivato la vocazione più profonda della ratio, ovvero della ragione occidentale, curvandola su se medesima in una riflessione tale da essere radicalizzazione della filosofia pura e fondamento della possibilità della propria storia. A dire il vero, Husserl poté operare tale congiunzione solo nella misura in cui l'analisi trascendentale aveva cambiato il proprio punto d'applicazione, il quale viene trasportato dalla possibilità di una scienza della natura alla possibilità per l'uomo di pensarsi. Quindi, primo punto che Foucault individua all'interno della tradizione fenomenologica. Il trascendentale kantiano, ok, rivolto alle scienze della natura, viene trasportato in un ambito che è quello della costituzione del soggetto. Primo punto fondamentale. Come dice qui, la possibilità per l'uomo di pensarsi. Non vorrei tornare troppo indietro, però il tema della scorsa lezione era stato quello. Perché a un certo punto compare qualcosa che chiamiamo uomo? E nella misura in cui il cogito aveva modificato la propria funzione, punto secondo, che non è più quella di condurre a un'esistenza apodittica, dimostrativa, di nuovo cartesio, il cogito cartesiano che scompone il mondo per risintetizzarlo e quindi dimostra la verità del mondo, a partire da un pensiero che si afferma ovunque pensi, di nuovo cartesio, questa razionalità che cerca di inglobare tutto, perché il fondamento del cogito cartesiano è questo, ma dimostrare come pensiero possa sfuggire a se stesso per portare a una domanda multipla e proliferante sull'essere. Quello che avevamo detto la volta scorsa all'inizio dell'analisi di questo paragrafo, cioè l'impensato, il limite, l'oltre che esiste fuori sempre e comunque dal pensiero e che il pensiero afferra. Il pensiero non più come cappello che si pone su qualcosa e lo razionalizza, ma il pensiero come avanzamento processuale verso un limite che è sempre completamente da guadagnare. L'impensato di cui parlavamo. la conquista di questo limite, avevamo visto la volta scorsa, è la creazione di pensiero, la creazione di nuovo pensiero, cioè il riuscire ad andare in territori inesplorati del mondo. La fenomenologia è quindi assai meno il recupero di una vecchia destinazione razionale dell'Occidente che il verbale assai sensibile e acconcio della grande frattura prodottasi nell'episteme moderna. Quindi Foucault individua in Husserl un pensatore che porta a compimento questo percorso che nasce dalla frattura che avevamo visto, nasce alla fine del XVIII secolo, quando il sistema della rappresentazione crolla. È per questo che la fenomenologia non ha mai potuto scongiurare l'insidiosa parentela, la vicinanza a un tempo promettente e minacciosa con le analisi empiriche sull'uomo. Vado fino alla fine. È per questo altresì che, pur inaugurandosi con una riduzione al cogito, è sempre stata portata a domande, alla domanda ontologica. Quindi Foucault conclude, e questo vorrei che sia il punto che rimane, sotto i nostri occhi il progetto fenomenologico non cessa di svolgersi in una descrizione del vissuto, empirica suo malgrado, cioè una descrizione delle cose, dello stato del mondo, ok? E in un'ontologia dell'impensato, la quale mette fuori circuito il primato dell'io penso. Cioè, quando la fenomenologia cerca di rispondere alla domanda che cos'è il soggetto, finisce totalmente nel territorio dell'impensato. E quindi nell'analisi foucaultiana il progetto husserliano non è un progetto fallito, ma è un progetto che porta avanti con una difficoltà tremenda queste due linee. Il raccontare se stessi come datità di fatto, ok? E il raccontare se stessi invece come pensiero che si autogenera. Di nuovo, il modello del cogito, il modello dell'impensato. Successivamente Foucault, spero di non sbagliare, sempre in questo paragrafo enuncia un altro elemento importante su cui sovvolerò ma che vorrei venisse puntato, cioè il fatto che all'interno dell'asse del rapporto cogito-impensato, all'interno dell'uomo emerge un territorio dell'impensato che non era esistito precedentemente. Questo territorio dell'impensato è l'inconscio. L'inconscio è chiaramente ciò che non è pensato, è ciò che è nell'uomo, fa parte dell'uomo, ma in quanto inconscio si rivela essere sempre un limite per il pensiero. È proprio l'inconscio, il non conscio, ciò che il pensiero non riesce a portare alla luce all'interno di se stesso. E quindi vediamo che sempre è nel momento in cui si va a costituire l'uomo, nel momento in cui si individua questa dialettica cogito impensato, che si può dare la nascita e lo sviluppo, che sorge una cosa che noi andiamo a chiamare inconscio. Va bene? A questo punto, con questo chiudiamo la parte sul cogito e l'impensato e passiamo al quarto momento di analisi del processo di costituzione dell'uomo, che Foucault intitola Arretramento e il ritorno all'origine, da pagina 354. L'origine è un tema assolutamente fondamentale in Foucault e ci sarà proprio dopo l'archeologia del sapere un appuntamento di questo seminario espressamente dedicato al tema dell'origine. Qua andremo molto rapidi. Semplicemente, la riflessione foucaultiana sull'origine, vorrei sintetizzarla in questo paragrafo all'interno delle parole e le cose, perché poi verrà ripresa massicciamente in un altro appuntamento del seminario. Vi leggo. L'uomo stabilisce rapporti con la propria origine in maniera diversa. L'uomo, infatti, non si scopre se non legato ad una storicità già formata. Cioè, noi non creiamo noi stessi ex nihilo, dal nulla. Non è mai contemporaneo dell'origine la quale attraverso il tempo delle cose si delinea sfuggendo. Quindi noi viviamo una duplice dimensione temporale, una dimensione temporale relativa al nostro presente, ma quando andiamo a ricercare di trovare il nostro presente, l'origine di questo presente è altrove, non è all'interno della nostra vita. Quando tenta di definirsi come essere vivente, non scopre il proprio inizio che sullo sfondo di una vita per suo conto iniziata prima di lui. Questo è chiaro. Quando tenta di recuperarsi in quanto essere al lavoro, vi ricordate vita, lavoro, linguaggio, i tre momenti fondamentali analizzati in questo testo, non ne mette in luce le forme più rudimentali se non all'interno di un tempo e di uno spazio umani già istituzionalizzati, già dominati dalla società. E quando tenta di definire la propria essenza di soggetto parlante di qua da ogni lingua effettivamente costituita, non trova altro che la possibilità del linguaggio già dispiegato, e non quel balbettio da quella prima parola a partire da cui tutte le lingue e il linguaggio stesso sono divenuti possibili. Quindi ci troviamo in una situazione nella quale l'uomo ha un rapporto con la propria origine strutturato in maniera per cui l'origine non gli appartiene, l'origine è prima di lui in un tempo che gli sfugge continuamente. Viviamo per una vita che non abbiamo creato noi, lavoriamo in una società che ci preesiste completamente, nella quale andiamo ad inserirci, parliamo un linguaggio il cui senso si è depositato storicamente. È come se noi fossimo vissuti, fossimo parlati, fossimo lavorati da un certo punto di vista. Solo questo punto per dire che questo tema dell'origine è un tema che l'uomo incontra solamente nel momento in cui diventa uomo. Andrei oltre, di nuovo, per non dilungarmi oltre su questo testo, per saltare poi a quello che è uno degli ultimi capitoli, da pagina 369, quando Foucault affronta il tema delle scienze umane. Cosa sono queste scienze umane? Le scienze umane sono le scienze dell'uomo, inevitabilmente, però tutto il tema del libro è: se esistono le scienze umane significa che sia apparso qualcosa che è chiamato uomo. Cosa sono queste scienze umane? Leggo l'introduzione. Il suo modo d'essere, quale si è costituito nel pensiero moderno, permette all'uomo di svolgere due funzioni. L'uomo, infatti, è alla base di tutte le positività e nello stesso tempo presente nell'elemento delle cose empiriche, in una maniera che non può dirsi neanche privilegiata. L'uomo presente all'interno delle cose empiriche, ripeto, è l'uomo che può analizzarsi come datità, come cosa tra le cose. Niente, rollando una borsa. Cioè, che può pensare se stesso nella maniera in cui pensa uno degli oggetti presenti all'interno del mondo. Questo fatto non si tratta dell'essenza in genere dell'uomo, ma semplicemente della priori storico, parola che abbiamo visto più volte ricorrere, che a partire dal XIX secolo serve da terreno quasi ovvio per il nostro pensiero. Questo fatto è probabilmente decisivo per lo statuto da dare alle scienze umane, al corpo di conoscenze, ma questa stessa parola è forse eccessiva, diciamo per essere ancora più neutri, all'insieme dei discorsi, che prende per oggetto l'uomo in ciò che ha di empirico. Quindi una prima definizione di scienze umane è l'insieme di discorsi che prende per oggetto l'uomo in ciò che ha di empirico, ovvero in ciò che si presenta, se vogliamo usare un altro linguaggio, come dato. Vorrei solamente nucleare, qui lascerei veramente alla lettura, a voi la lettura di questo paragrafo, due dati, due caratteristiche sulle scienze umane. La prima è questa: qual è il rapporto fra le scienze umane e la matesis? Ovvero, quando noi parliamo dell'uomo, quando noi abbiamo l'uomo come oggetto da analizzare, la matematizzazione dell'uomo, quanto è possibile? La risposta foucaultiana è abbastanza sorprendente. Qua prendo proprio un punto specifico da pagina 375. Lo stesso è accaduto per quanto riguarda le scienze umane. È stato il regredire della matesis regredire, ripeto, e non l'avanzare della matematica che ha permesso all'uomo di costituirsi come oggetto del sapere. È stato l'avvolgimento su sé medesimi del lavoro, della vita e del linguaggio che ha prescritto dall'esterno la comparsa di questo nuovo campo. Ed è la comparsa di questo essere empirico trascendentale, di questo essere il cui pensiero è indefinitamente tramato con l'impensato, di questo essere continuamente separato da un'origine promessagli nell'immediato del ritorno, è questa comparsa che conferisce alle scienze umane la loro fisionomia caratteristica. Cosa sta dicendo qui Foucault? Che è un punto molto interessante dal punto di vista epistemologico. Sta dicendo che la scienze umane non si basano su un processo di matematizzazione totale. Le scienze umane non sono la fisica. Le scienze umane hanno per essenza costitutiva il fatto che l'oggetto uomo in sé, per il fatto che ha una dimensione di impensato, per esempio, come dice qua, per il fatto che si basa su dei semi trascendentali come la vita, il lavoro e il linguaggio, si lascia sfuggire da un progetto di matematizzazione. Le scienze umane, nel momento in cui noi affrontiamo l'uomo come oggetto, non lo affrontiamo nella maniera in cui la fisica affronta il proprio ambito di oggettivazione. Siamo all'interno di un tipo diverso di discorso. E quali sono queste scienze umane di cui parla quindi Foucault? Ci sono vari passaggi su questo, però a titolo esemplificativo gran parte di queste pagine si sviluppano sulla psicologia e sulla sociologia. Se noi pensiamo allo statuto della psicologia e della sociologia anche contemporanei, possiamo capire benissimo di che cosa stia parlando Foucault in questo momento, dell'impossibilità di tradurre in un discorso matematico totale queste due scienze. Ed è anzi il fatto che la matematica sia regredita, cioè la matematica abbia dato spazio a un linguaggio verbale di descrizione dell'oggetto uomo, che queste scienze siano potute nascere. È chiaro? E quali sono le caratteristiche per esempio, della psicologia e della sociologia? Cito da pagina 377. In termini più generali, l'uomo, per le scienze umane, non è il vivente che ha una forma ben particolare. È il vivente che dall'interno della vita, da cui da cima a fondo appartiene, che lo traversa nell'intero suo essere, costituisce rappresentazioni grazie alle quali vive e muovendo dalle quali detiene la strana capacità di potersi rappresentare la vita, appunto. Qua Foucault reintroduce nell'ambito delle scienze umane la parola rappresentazione, ovvero quando siamo in ambito psicologico, quando siamo in ambito sociologico, l'uomo fornisce di se stesso una nuova tipologia, una nuova modalità di rappresentazione, ok? In una dialettica con il mondo matematico serrata ma mai totale, una nuova modalità di rappresentazione per cui si viene a costituire un nuovo tipo di discorso sull'uomo. Parimenti, per quanto l'uomo sia nel mondo, se non l'unica specie che lavora, quello almeno per cui la produzione, la distribuzione e il consumo dei beni hanno assunto tanta importanza e ricevuto forme così molteplici e differenziate, non per questo l'economia è una scienza umana. Si dirà forse che per definire le leggi che pur sono interne ai meccanismi della produzione, essa ricorre a comportamenti umani e ad una rappresentazione che li fonda, ma così facendo essa utilizza le rappresentazioni in quanto requisito di un funzionamento. Si avrà invece scienza dell'uomo, ok? Si avrà invece scienza dell'uomo, quindi l'ambito economico di cui ho appena parlato è diverso, solo se ci rivolgiamo al modo in cui gli individui o i gruppi si rappresentano i loro simili. Cioè è solo quando l'uomo è in grado di fornire una nuova tipologia di rappresentazione di se stesso che possono nascere le scienze dell'uomo. Ripeto, psicologia e sociologia. Ok? È solo quando l'uomo è in grado di descrivere se stesso in una certa maniera che può nascere tutto l'apparato psicologico. La biologia ci può descrivere in termini di funzionamenti neuronali, ok? In termini di meccanismi fisiologici, in termini di relazioni chimiche. Ma la biologia, la fisiologia, se vogliamo, non descrive l'uomo in quanto tale. Se vogliamo, descrive l'uomo in quanto macchina chimica, in quanto animale, nel caso della biologia, ok? Ma la descrizione dell'uomo nasce solo nel momento in cui l'uomo dà una rappresentazione di se stesso al di fuori da questo ambito. È chiaro, questo è il punto fondamentale. Io mi posso scomporre dal punto di vista scientifico, mi posso analizzare e comprendere dal punto di vista scientifico, ma l'uomo non è questo. L'uomo di cui sta parlando qui Foucault, l'uomo oggetto delle scienze umane, ha una dimensione in cui rappresenta se stesso, che non è appunto quella dimensione di cui parlavamo prima, di un altro ambito scientifico. È chiaro questo punto? Quindi noi possiamo avere l'economia che quantifica i processi legati alla moneta, legati allo scambio, legati al lavoro, se vogliamo, in cui viviamo, ma è la sociologia che si basa su un tipo di analisi rappresentazionale dell'uomo e che permette un discorso vero e proprio sull'uomo. Se è chiaro questo punto, passerei molto rapidamente a uno degli ultimi momenti, passaggi di questo libro, la psicanalisi e l'etnologia. Foucault dedica delle pagine specifiche a queste discipline. La psicanalisi e l'etnologia non sono tanto delle scienze umane a fianco delle altre, pagina 405, ma esse ne percorrono l'intero campo, animandolo in tutta la sua superficie. Pensiamo alla psicanalisi, che è forse quella con cui noi siamo più a nostro agio, come bagaglio di conoscenze comune. Attraversa la vita la psicanalisi, sì, attraversa il lavoro, sì, attraversa il linguaggio, sì. La psicanalisi è assolutamente trasversale, non è settoriale da questo punto di vista. La psicanalisi parla dell'uomo, ma in quale maniera? Diffondendo dunque i loro concetti ovunque, potendo ovunque proporre i loro metodi di decifrazione e le loro interpretazioni. Nessuna scienza umana può avere la certezza di non dover loro qualcosa o di non essere almeno parzialmente subordinata a ciò che hanno potuto scoprire e o di non dipenderne in un modo o nell'altro. Ma il loro sviluppo ha questo di particolare. Per quanto abbiano una portata quasi universale, non per questo esse si avvicinano a un concetto generale dell'uomo. Non mirano mai, infatti, a delimitare ciò che nell'uomo potrebbe essere di specifico, ed irriducibile ed uniformemente valido ovunque l'uomo è dato all'esperienza. L'idea di una antropologia psicanalitica, l'idea di una natura umana restituita dall'etnologia, non sono che pii pochi. Non soltanto etnologia e psicanalisi possono fare a meno del concetto di uomo, ma non possono nemmeno incontrarlo, dal momento che, e qua arriviamo al punto, sono costantemente volte a ciò che ne costituisce i limiti esterni. Psicanalisi e etnologia descrivono i confini dell'uomo, ma non descrivono la rappresentazione dell'uomo. Di entrambe possiamo dire, perdonatemi, ho perso la pagina, errore mio. Scusatemi, hai per caso? È che 405, grazie. O mi si sono confuse? Sì, la do. Grazie. Trova tra qua. Yes. Grazie mille. Di entrambe possiamo dire ciò che Lévi-Strauss diceva delle etnologie. Esse dissolvono l'uomo. Non già al fine di ritrovarlo meglio e più puro e per così dire liberato, ma per il fatto che risalgono verso ciò che ne fomenta la positività. Cioè per il fatto che risalgono a quei meccanismi che fanno sì che l'uomo si dia nella maniera in cui si dia, alla descrizione di questi limiti, alla descrizione di questi spiriti, di queste urgenze. Okay? E a questo punto arriviamo alla fine delle parole e delle cose, una fine significativa. Quindi abbiamo ricostruito un percorso che cercava di capire come è nato l'uomo, abbiamo visto un percorso denso, non un percorso sistematico, ma un percorso fatto di illuminazioni su alcuni spunti, abbiamo visto la genesi delle scienze umane e come conclude Foucault. Una cosa è comunque certa, pagina 413, l'uomo non è il problema più vecchio, più costante postosi al sapere umano, è vero. Abbiamo visto con Antonio Caronia nella prima lezione, la prima domanda della filosofia non è l'uomo, ma è l'inizio di tutte le cose. Prendendo una cronologia relativamente breve e una circoscrizione geografica ristretta, la cultura europea dal XVI secolo in poi, possiamo essere certi che l'uomo vi costituisce un'invenzione recente. Quello che abbiamo visto nelle ultime 2 ore e mezza. Non è intorno ad esso e ai suoi segreti che a lungo oscuramente il sapere ha vagato. Di fatto, fra tutte le mutazioni che alteravano il sapere delle cose e del loro ordine, il sapere delle identità, delle differenze, dei caratteri, delle equivalenze e delle parole, uno solo, quello che prese inizio un secolo e mezzo fa e che forse sta chiudendosi, lasciò apparire la figura dell'uomo. Non si trattò della liberazione di una vecchia inquietudine, del passaggio alla coscienza luminosa d'un'ansia millenaria. Non c'è nessun fine teleologico nell'apparizione dell'uomo. È apparso questa cosa che chiamiamo uomo. Dell'accesso all'oggettività di ciò che a lungo era rimasto preso in fedi o in filosofie. Le scienze dell'uomo non sono apparse a un certo punto perché siamo riusciti a razionalizzare un oggetto di cui già parlava la Bibbia o di cui parlava Buddha. No, è proprio un percorso che penso sia chiaro, completamente differente. Fu l'effetto di un cambiamento nelle disposizioni fondamentali del sapere. Fu una frattura epistemologica, di cui abbiamo già parlato più volte. L'uomo è un'invenzione di cui l'archeologia del nostro pensiero mostra che agevolmente la data recente. Ok, fine XVIII secolo. E poi la conclusione piuttosto celebre di questo testo. E forse la fine prossima. Se tali disposizioni dovessero sparire come sono apparse, cioè se stessimo vivendo una frattura epistemica nuova, se l'episteme della modernità fosse finita, se a seguito di qualche evento di cui possiamo tutt'al più presentire la possibilità, ma di cui non conosciamo per ora né la forma né la promessa, precipitassero, come al volgersi del XVIII secolo accade per il suolo del pensiero classico, possiamo senz'altro scommettere che l'uomo sarebbe cancellato, come sull'orlo del mare un volto di sabbia. E Foucault sta ponendo qui alla fine del libro forse la domanda più importante di questo libro in assoluto. 1966, la fine prossima, cioè le parole e le cose si chiude con un'ipotesi, forse non formulata ma accennata, buttata lì. Stiamo forse al tramonto dell'episteme moderna che ha fondato l'uomo, siamo forse al tramonto dell'apparato delle scienze umane, siamo forse vivendo una frattura epistemologica che ci condurrà verso altro, per cui la gente che vivrà fra un secolo penserà se stessa in una maniera con degli apparati concettuali differenti rispetto a quelli che utilizziamo noi. Direi che la risposta è sì, però sicuramente è uno degli ambiti di ricerca fondamentali epistemologici, filosofici, ontologici, artistici. Possiamo allargare gli strumenti quanto vogliamo dei prossimi decenni. Con questo, con il volto di sabbia che scompare all'orlo del mare, finisce le parole e le cose. E quindi lascio immediatamente, sperando di non aver sottratto troppo tempo, la parola ad Antonio Caronia, che parlerà del testo L'archeologia del sapere. Allora, due cose, abbiamo imparato, credo, da quest'ultima coda di lezione che ha fatto adesso Amos, e cioè primo che era meglio, sarebbe stato meglio non farsi mai elogiare da Foucault, perché i colpi di frusta di backlash arrivavano, avete visto come tratta la psicanalisi dopo quella prima frasetta in cui invece sembra dire ah ma com'è importante, bla bla eccetera eccetera. Paul Vane ha scritto che Foucault era un samurai. Allora, i samurai sapete tutti che tipi sono. Tipi dai movimenti sinuosi ma imprevedibili, quelli bravi, e dalla lama molto tagliente, quindi probabilmente Foucault aveva una lama tagliente di questo tipo. La seconda cosa che possiamo ricavare è che probabilmente, se è vera l'ipotesi che ha adombrato Amos nell'ultima sua asserzione, si può dire che le parole e le cose sia indubitabilmente il primo testo sul postumano che sia mai comparso nella cultura occidentale, in grande anticipo su una serie anche di sciocchezzuole molto meno rilevanti di quel libro, scritte da ovviamente persone meno rilevanti di Michel Foucault, ma che ahimè conquistano spesso le prime pagine dei giornali meglio di Foucault, anche se bisogna dire che la pubblicazione recente sia in Francia che con qualche anno di ritardo in Italia dei corsi al Collège de France, di cui questo è l'ultimo, appena uscita la versione italiana dell'ultimissimo corso di Foucault al Collège de France, Le Courage de la Vérité, Le Gouvernement des Fois et des Autres, deuxième partie, Il Coraggio della Verità, Il Governo di sé e degli altri due, che è appena uscito, quindi insomma, un po' di articolini sui giornali compaiono, insomma, c'è un grande interesse, l'interesse che c'è intorno a Foucault adesso, oggi, naturalmente dipende in gran parte da questioni sostanziali, ma per quanto riguarda purtroppo il marketing editoriale in cui siamo immersi, anche se non ci piace, dipende anche da questo fatto, cioè dal fatto che abbiamo finalmente disponibile una parte della sua opera che presa complessivamente è addirittura più lunga, sono più pagine delle parti diciamo stampate. Allora, per parlare dell'archeologia del sapere, mi spiace se corro, vado in fretta, ma il tempo è veramente poco, io la prossima volta non ci sono, quindi non posso fare la coda che ha fatto adesso Amos, quindi salterò tutto un sacco di cose che volevo dirvi, ma anche forse più divertenti, vi dirò le cose meno divertenti, chiedo scusa. Però una cosa devo dirla, perché bisogna capire perché esce un libro così noioso e così, virgolette, arido, adesso attenzione perché pure io qualcosa da Foucault ho imparato, come L'archeologia di Savoir, che esce nel 1969. È un testo talmente noioso e talmente arido che adesso, che è la seconda volta e mezzo che lo leggo in questi giorni per fare... Ho proprio finito pochi minuti prima della lezione di rileggere alcune pagine, lo trovo personalmente entusiasmante, perché finalmente la seconda volta capisco delle cose che non avevo capito prima, come voi direte questo capita sempre perché sei fatto male tu, questo è vero, però insomma penso che possa essere una condizione. Allora, perché Foucault scrive La Curiosità del Sapere? Perché dunque, prima La Curiosità del Sapere Foucault ha scritto quattro libri e più alcune altre cose, l'introduzione all'antropologia di Kant, l'introduzione a Binswanger, eccetera, ma i suoi libri sono L'Histoire de la Folie, Les Mots et les Choses, Prima delle Mots et les Choses, La Naissance de la Clinique, che è una specie di duplicato della nascita della follia, dedicato però alla medicina più che e però molto più, è il suo libro probabilmente più mille virgolette, strutturalista, cioè quello in cui sarebbe più semplice e più facile scambiare Foucault, come fecero molti dei suoi contemporanei e come cosa di cui venne accusato, di cui lui si incazzò giustamente, insomma, però La Nascita della Clinica molto probabilmente è quello a detta dello stesso Foucault dopo, insomma, se fosse quello più semplice. E poi ovviamente Les Mots et les Choses, che fino a quel punto aveva rappresentato il suo progetto più ardito, più vasto, insomma, ricostruire l'episteme della... bene, in tutti questi casi, tutti questi libri, principalmente La Storia della Follia e Le Parole e le Cose, generano però una reazione che probabilmente Foucault non si aspetta. Foucault era sì un samurai puntuto, pungente, tutto quello che volete, era ancora abbastanza giovane all'epoca, non aveva neanche 40 anni, insomma, quindi Però quello che lui non si sarebbe mai aspettato è l'incomprensione totale che accoglie i suoi libri in quegli anni in Francia. Vi racconterò solo una cosa ridicola, o non so più se me la sono segnata, quindi devo ricostruirla a memoria, ma mi pare che è nel 1966 o 67, ma lo possiamo andare a controllare, che Jean-Paul Sartre, che in quegli anni è un nome molto più ovviamente del giovane Foucault, però ritiene opportuno, sì, 1966, esce un numero della rivista L'Arco, dedicata a Foucault, e in cui c'è un saggio di Sartre che è uno dei punti forti per l'accusa di strutturalismo. Foucault viene accomunato ad Althusser, che neanche lui è possibile considerare strutturalista, è un marxista, diciamo, deviato per sua fortuna, quindi dice no, Foucault e Althusser disprezzano la storia, sostituiscono alla storia le strutture. Jean-Paul Sartre, il più grande interprete di Heidegger in Francia di quegli anni, dice che l'archeologia è una geologia che sostituisce le trasformazioni con le stratificazioni, e conclude: Foucault è l'ultimo baluardo della borghesia. Foucault è l'ultimo baluardo, bastione della borghesia. Quindi capite che... Allora Foucault si accorge probabilmente, e poi c'è questa cosa strana di cui voglio dire qualche, come dire, parola. Obiettivamente la struttura delle parole cose e la tesi fondamentale delle parole cose risultò strana anche a me quando l'ho lessi tanti anni fa, e faccio non ripeto l'ammenda sulla mia stupidità giovanile che ho già fatto troppe volte, però insomma questa cosa mi stupì un po', cioè che lui post-datasse così fortemente la, come dire, modernità in tutte le cose che io stavo leggendo in quegli anni lì, ed erano gli anni in cui con alcuni di voi che sono qua questa sera, insomma, facevamo un post di lavoro culturale, insomma, politico, eccetera, sociale, tutto insieme, eccetera, eccetera. In tutti i testi che leggevo in quegli anni lì, la modernità era un processo, certamente, ma che, insomma, si datava grosso modo tra il 600 e il, insomma, 700, addirittura alcuni parlavano, cioè, giustamente, insomma, cioè, come dire, la fine del Medioevo nei libri di storia mi hanno detto era il 1492, scoperta dall'America, cacciata dei Mori dei Mori dalla Spagna, e inizio della conversione degli ebrei. Questo non c'è scritto nei libri di storia, ma bisogna dirlo, i due re, i cattolicissimi Ferdinando d'Aragona e Isabella detta la Cattolica. Quindi accidenti, insomma, ci scippa due secoli. Perché scippa due secoli alla modernità Foucault in questo libro? Una cosa si capisce chiarissimamente, anche era una delle poche cose che avevo capito anche la prima volta che avevo letto le parole delle cose. Foucault è un patito della discontinuità. Foucault non gliene frega nulla, e adesso vedremo come pone il problema all'inizio proprio dell'archeologia del sapere. Foucault è l'uomo delle faglie, vuole indagare le rotture, è quello che gli interessa, perché nelle rotture, nelle faglie, nei passaggi, che sono le transizioni, sono lisce quanto si vuole, eccetera, ma ci sono sempre dei momenti in cui, come appunto la metafora del terremoto va bene, insomma, no? A lungo sono continui gli scorrimenti di uno strato della crosta terrestre, poi a un certo punto succede che fanno la catastrofe, c'è, cioè, il patatrac, diciamo, la discontinuità è, si potrebbe dire forse che è una continuità resa visibile, ma è pur sempre una... lui è interessato a questa cosa. Allora, se voi guardate bene tutta l'analisi delle parole e delle cose, qualcuno allora si deve chiedere, ma scusa, ma se la modernità per te comincia alla fine di tutto il secolo, perché non hai impiegato queste 400 e passa pagine che ci hai ingorgato? Fai soltanto l'800, spiegaci cosa. Ma voi vedete bene, se lo leggete, che sarebbe impossibile, sarebbe stato impossibile per Foucault cominciare, diciamo, restringere il suo campo d'azione soltanto all'800, perché in realtà il 500, il 600 gli servono per mostrare i prodromi, se lui non ci avesse spiegato quello che succede prima, e quindi da un certo punto di vista, contro le intenzioni dello stesso Foucault, Le parole e le cose finisce per descrivere più delle continuità che non delle discontinuità, più delle relazioni di quasi di causa e di effetto, fatte salve le critiche di Hume, che in qualche maniera, poi vedremo, Foucault fa sue e le elabora in modo anche molto più sofisticato, ma al fondo sono quelle, insomma, per dirla in termini più. E allora quindi è per questo, molto probabilmente, che in qualche maniera Foucault si rende conto che a questo punto deve spiegare meglio alcuni dei termini che ha usato, alcuni dei concetti che ha introdotto e soprattutto il suo metodo, perché ha individuato in quei tre campi la vita, il lavoro, la vita, la ricchezza e il lavoro, il sorgere dell'età moderna e di questo strano allotropo empirico trascendentale che è l'uomo, eccetera, eccetera. E quindi per questo dice adesso che però tanto è vero che l'introduzione all'archeologia di Savoir finisce con un finto dialogo tra i critici, tra un immaginario critico di Foucault e Foucault, e tutta l'ultima parte, non mi ricordo più quante pagine sono, ma questa ve la pago io, questo pezzo, questa parte qua, sono da 260, insomma, quasi 20 pagine, e tutto il finale della archeologia è di nuovo un finto dialogo tra, quindi che questo sia, che questa cosa fosse la molla fondamentale che ha spinto Foucault a scrivere prova mi sembra, diciamo, chiaro, ma io ho un dubbio che ovviamente vi propongo solo come ipotesi di lavoro, che può essere smentita, che può essere, e il dubbio che ho è questo, che il libro che si chiama L'archeologia del sapere e che quindi riprende pari pari il sottotitolo delle parole e le cose, un'archeologia delle scienze umane, in questo libro, nell'archeologia del sapere, in realtà l'archeologia è qualcosa di lievemente, ma sottilmente forse, ma secondo me definitivamente diverso da quella che è l'archeologia, dal metodo, quindi quando lui pensa di cominciare a scrivere il metodo usato nelle parole e le cose, in realtà comincia già a fare un passo in là anche oltre le parole e le cose, di cui lui si rende conto benissimo dei limiti, o dei limiti che certo per carità di patria, perché già lo attacca troppa gente, probabilmente non porta troppo a fondo, ma ci sono vari punti, vari passaggi dell'archeologia del sapere in cui dice no, ma effettivamente qui ho sbagliato, non era chiarissimo. È molto cauto, però è consapevole di questi, diciamo, limiti. E questi, diciamo, il limite dell'archeologia del parola, secondo me si vede, è un'ipotesi che vi propongo con una metafora molto ardita, ma spero di sostenerla, se non ho il tempo, poi vi troverete voi da soli i passaggi in cui, confrontando i modi di dire, soltanto delle parole e le cose, e i modi di dire dell'archeologia del, diciamo, sapere, proviamo a fare anche noi, di applicare il metodo di Foucault a Foucault stesso, no? Alle sue opere, quindi cerchiamo di capire l'episteme di Foucault, che spesso non è esattamente quello che lui esplicita. E adesso io ve la dico così perché non ho il tempo, non posso argomentarla troppo a lungo, però in qualche modo l'archeologia nelle parole e le cose è un cammino che va ancora dall'alto verso il basso, verticalmente. Dove l'ho scritto, accidenti, ecco, per esempio a un certo punto voi trovate delle cose tipo l'emergere dei campi empirici, emergere, uscir fuori, tirare fuori, nelle parole e le cose il movimento, secondo me, è ipotizzabile così, dall'alto verso il basso, si va, si scava, certo è ovvio, la superficie delle cose non ci dice quello che le cose vogliono dire davvero, o il loro, certo, nelle parole come dire, le cose, Foucault ha già superato psicanalisi, freudismo, marxismo, fenomenologia, non va alla ricerca dell'essenziale, non è già più un essenzialista, però corre dei rischi di essenzialismo, perché se il movimento, se si cerca qualche cosa che sta sotto, in qualche modo un substrato, il rischio dell'essenzialismo c'è, sempre, cioè è sempre una sostanza, una substanza, qualcosa che sta sotto, qualcosa che era segreto, qualcosa che non era. Il metodo proposto nell'archeologia del sapere è totalmente diverso. È un metodo che io descriverei come il metodo del saltare di lato, del mettersi da un'altra parte. Questo tutti lo sappiamo, perché occorre una certa distanza diciamo rispetto a un qualunque oggetto di indagine, se vogliamo capire qualche cosa davvero. Se non vogliamo, quando Fabrizio Del Dongo sta nel rosso e il nero di Stendhal, sta dentro la battaglia di Waterloo, e non si capisce, voi leggete quelle pagine di Stendhal e non c'è la battaglia di Waterloo, non sembra che non ci sia neanche una battaglia, non c'è il movimento delle truppe. Per capire la battaglia di Waterloo dovete stare o sulla collina su cui stava Napoleone o sulla collina su cui stava Wellington e i prussiani, perché sennò non vedete il campo di battaglia, vedete, se state dentro la foresta non vedete la foresta, vedete solo gli alberi. E sorrido perché c'è una storia sulla storia dell'ambigotopia in cui abbiamo usato Giuliano e io più o meno questa stessa metafora, vedere gli alberi e non vedere la foresta. Insomma, grosso modo, quindi, però, però fa una differenza la direzione nella quale ci si muove e ci si mette. Guardare dall'alto, salire in alto, ragazzi, sono tutte metafore, non prendetele alla lettera, non incazzatevi pure perché uso poche metonimie, ma insomma, in questo caso la metafora spaziale funziona, insomma. Se state troppo in alto o provate ad andare troppo in basso, siamo comunque sempre prigionieri di una dimensione già inscritta all'interno di quelle cose, di quella formazione, di quella autorappresentazione che l'uomo fa di se stesso. Se lo scopo di Foucault è quello di capire le condizioni alle quali è stato possibile per gli uomini di una certa epoca costruirsi una certa autorappresentazione, è impossibile vederlo mettendosi molto in alto o molto in basso sulla stessa linea verticale, perché in questo modo si condivide con quell'epoca, e questa io credo che sia implicitamente una critica anche alla scuola storica delle Annales, che in quegli anni in Francia, diciamo Brodel e poi Leroy La Durie, e chi è il più famoso, l'altro, Duby, insomma, tutti questi qua, che sono quelli. Adesso, insomma, come vedremo nell'introduzione alle parole e alle cose, Foucault fa un grande elogio della nuova storia, ma io leggendola ho la estrema sensazione che sia pochissimo realistica questa. Lui non parla, in realtà sono ben pochi i nuovi storici che fanno davvero le cose che lui dice nell'introduzione all'archeologia del sapere, e che quindi ho l'impressione che siamo di fronte a una specie di gioco di schermi, insomma. Allora, invece, io credo che il metodo l'archeologia che lui inaugura con questo libro, e poi diciamo il nuovo metodo che chiamerà sulla scorta di Nietzsche genealogia, e ci fermeremo un'intera lezione su quel breve testo diciamo dedicato a Nietzsche, condividono invece secondo me un altro tipo di movimento che io chiamerei un movimento laterale, il movimento del gambero, insomma, come cammina il gambero, no? Il salto del cavallo, usate la metafora che volete. Bisogna mettersi da un'altra posizione ma cambiare realmente punto di vista, cioè non stare rinchiusi all'interno di quel campo di quella, potremmo dire, formazione discorsiva con i termini che usa nell'archeologia, e tentare di decostruirla dicendo ah, ma questa in realtà viene da qua, ah, ma questo in realtà tende a quello. Questo è, nonostante gli innegabili meriti che hanno avuto sia Marx che Freud e a cui Foucault, adesso per prima l'ho preso un po' in giro, ma insomma era anche sincero per certi versi, come è sincero per esempio l'omaggio che fa a Marx nell'introduzione del sapere. Già sia Marx che Freud avevano a modo loro in qualche maniera decentrato il diciamo soggetto, però sia Marx che Freud erano prigionieri entrambi di un essenzialismo, di un universalismo, di un tentativo di cercare le strutture generali. Ah, adesso mi dico io quali sono le vere strutture. La coscienza è una finzione, dice Freud. In realtà quello che conta non è l'io, che è una finzione procedurale fatta apposta per farti sentire bene, eccetera. Quello che conta in realtà è l'essere, sono i movimenti, quello che sta sotto, siamo sempre, l'essere in corso sta sotto l'io, no? E Marx dice sì, tutte balle, quelle delle giustizia, libertà, eccetera, quello che sta sotto è l'economia, è. Adesso io non voglio essere insomma ingeneroso, ma insomma in qualche modo il punto di vista marxista anche dello stesso Marx, non dico marxista, marxiano, anche Marx condivideva con diciamo, tanto più i marxisti e i neomarxisti di oggi condividono con gli avversari di classe almeno un punto fondamentale, cioè la centralità dell'economia, l'importanza della economia. Cioè Marx non ha mai messo in dubbio questo. Ora questo che cosa implica? Anche lì vuol dire, beh, scaviamo, sotto sotto c'è un'essenza delle cose, l'inconscio, l'economia, politica, eccetera, eccetera. Certo, bisogna vederla, guardarla, leggerla con occhi intelligenti. E Foucault non si presta, è esattamente questo il genere di discorso che lui non vuole, che lui diciamo rifiuta. Lui pensa che il processo di formazione del soggetto sia ben più complicato, ma anche ben più ricco e quindi ben più aperto a possibilità nuove. Questo è ogni nuovo libro, sto divagando come un disperato, ogni nuovo libro, ogni nuovo corso al Collège de France che esce, no ma ce la farò, Frédéric Gros, che è il curatore dell'edizione del liceo francese, ricorda, sottolinea che gran parte delle aspettative del pubblico, ed era tanto, erano due sale grandi, due anfiteatri in cui c'erano gli uditori di Foucault, quello per cui molta gente andava, era che certamente sentivano che parlava di storia, della filosofia greca, eccetera, ma c'era sempre implicita, in modo implicito, quasi mai detta, ma c'era sempre un rimando all'attualità e ogni ascoltatore era in grado, da come Foucault faceva queste sue lezioni, di ricavare quindi diciamo il discorso foucaultiano appariva, è sempre apparso, anche quando non lo dichiarava in maniera esplicita, come un discorso fortemente implicato con l'attualità, cioè c'era da ricavarne qualche insegnamento, qualche strumento, qualche modo, qualche attrezzo per agire poi nella contemporaneità, e poi vedremo che anche lui ha fatto. Allora, io dell'archeologia del sapere abbiamo deciso con Amos di fare un, vabbè, insomma anche noi appunto, ripeto, cerchiamo di applicare a Foucault, di far morire Foucault della stessa morte di cui lui ha fatto morire tutto il resto delle cose. Allora quindi questo libro è suddiviso in tre parti, le chiamerò parti, ogni parte è divisa in un certo numero di capitoli. La prima parte si chiama Le regolarità discorsive e tratta di questo concetto, di questa categoria, chiamiamola, che è quella di discorso. Il termine discorso compare molte volte anche nelle parole delle cose, ma l'accezione con la quale compare nell'archeologia è lievemente, se non fortemente, cioè da se lievemente a fortemente, diciamo, diversa. Il discorso è, potremmo dire, vagamente, l'abbiamo già detto, poi questa parte però la spiegherà meglio nella prossima lezione Amos, è praticamente il sostituto o un erede di ciò che nelle parole delle cose era l'episteme. Però il discorso, però in qualche modo, già il fatto che lui usi un termine come dire discorso, rivela che l'altro punto, l'altro passo avanti che c'è rispetto alle parole e alle cose, rivela che l'interesse di Foucault sta diventando, con questo libro, più esplicitamente linguistico. Foucault è diventa cosciente scrivendo questo libro, quindi il libro lo finisce nel 67, quindi il libro, questo è pubblicato nel 69, ma lui ha finito di scriverlo già alla metà del 67, quindi subito dopo le parole cose l'aveva avviso nel 65. Quindi nei due anni che ci mette per scrivere, lui diventa cosciente di questo fatto e la preoccupazione linguistica diventerà dominante in molto del Foucault, diciamo, successivo. Questa quindi è il secondo, la seconda cosa. Quindi, essendo il discorso un concetto, una categoria che ha in qualche maniera a che fare con il linguaggio, dice, vabbè, andiamo a vedere come è composto, come è fatto questo discorso, e si scopre che questo discorso è fatto di cose che lui chiama enunciati. L'enunciato e l'archivio è la seconda parte del libro della Curia Sapere. In realtà la ragione per la quale Foucault parla prima del discorso, cioè le regolarità discorsive, e poi dell'enunciato, sono spiegate da lui, da lui stesso, e non sono di per sé sbagliate, sono, ve le traduco in molti soldoni e chiedo scusa a Foucault sperando che non si rivolga nella tomba, ma sono queste, insomma, cioè è il discorso l'unità significativa realmente. Quindi partiamo da lì, vediamo che cosa sono i discorsi, eccetera. Certamente il prezzo che paga è che presuppone una nozione di enunciato che nella prima parte non spiega, e quindi è costretto a farlo nella seconda parte. La terza parte non è nient'altro che una ripresa della prima, detta, alla luce delle nuove cose che sono dette nella parte. Allora io farò pochissime, io questa sera vi racconterò brevissimamente, se ce la faccio nella mezz'ora che rimane, l'introduzione del libro e l'introduzione dell'archeologia e i primi tre paragrafi del capitolo l'enunciato, o i primi tre capitoli della parte l'enunciato e l'archivio. Amos dovrebbe, se ce la fa, fare insieme tutta la prima parte e gli ultimi due capitoli della seconda parte, perché sono quelli in cui si tratta del, come dire, discorso. Le premesse sono messe nella prima parte, però nelle ultime due, poi della seconda, dopo aver ridefinito l'enunciato, lui ritorna sul tema discorso. E io poi farò invece la terza parte, che si chiama la descrizione archeologica, in cui c'è il vero rapporto tra questi strumenti, no? Diciamo, questo strumento, questo concetto di formazione discorsiva e i rapporti con le pratiche discorsive e non discorsive che fondano la centralità di questa categoria. Perché il terzo punto sul quale credo Foucault fa un passo avanti nell'archeologia rispetto alle opere precedenti è questo, che in questo libro diventa fortemente consapevole, o mostra di essere fortemente consapevole, che l'universale, che la debolezza dell'universale, dell'universalità, sta esattamente nel suo essere eccessivamente staccato dalla pratica, e cioè che è la pratica l'elemento fondante, che sono le pratiche l'elemento fondante. Le pratiche possono essere linguistiche di vario tipo, ci sono pratiche anche di tipo, virgolette, un po' astratto, insomma, che non è che sia, però sono le pratiche, quando, e infatti adesso vedremo se riesco a raccontarvelo questa sera. Allora, quindi nella introduzione, ripeto, lui parte dalla storia. Dice, da decine d'anni ormai l'attenzione degli storici si è rivolta di preferenza ai periodi lunghi, e spiega come, secondo lui, invece, quella che lui chiama la nuova storia, che io mi permetto di dubitare che esistesse tanto ai suoi tempi, cioè penso che si tratti o di uno wishful thinking di Foucault o di un escamotage, diciamo, retorico suo per non presentarsi troppo isolato, visto che comunque un po', diciamo, ma da questo lasciamolo perdere, può essere che io leggo male, eccetera, eccetera. Cita, le uniche persone che cita in questa prima parte della cosa sono i suoi, uno non è neanche un maestro in senso stretto, è Gaston Bachelard, un epistemologo francese poco studiato, poco noto, ha avuto anche in Italia un breve periodo di, però insomma è poco letto, poco letto e poco studiato anche da me per primo, insomma. Il secondo invece è Kang Yem, che è uno storico delle idee, un filosofo francese che invece è stato molto, molto più vicino a Foucault, e il terzo è un tale Guéraud che sinceramente, devo dire, tu vuoi, dice, potevi andare ad informarti, ma non so chi sia, quindi non posso dirvi. Allora, in questa trasformazione della storia, che semplificando un po', insomma, lui dice la nuova storia, tra virgolette, nuova storia è passata da un esame dei periodi lunghi, delle continuità, delle spiegazioni di come diciamo, gli eventi si sono sovrapposti, stratificati, eccetera, ad una analisi invece dei punti di rottura, delle discontinuità. E qui c'è la famosa frase citata spesso a sproposito da alcuni, purtroppo a sproposito credo anche da uno dei miei allievi nell'Amnod, che è ormai uscito, ma insomma, che è stato uno dei primi che prima ancora che arrivasse Amos all'Amnod ad usare un testo di Foucault, esattamente questo sul mio consiglio, e la frase è questa: per dire in poche parole la storia, ragazzi, io non vi cito le pagine perché siccome io ho una vecchia edizione non so bene se le pagine di questa corrispondono a quella che avete voi o che trovate in commercio adesso, comunque questa è l'introduzione e ve la trovate per conto vostro. Per dire in poche parole, la storia nella sua forma tradizionale si dedicava a memorizzare i monumenti del passato, a trasformarli in documenti, trasformava quindi i monumenti in documenti, e a far parlare quelle tracce che in se stesse non sono affatto verbali o dicono tacitamente cose diverse da quelle che dicono esplicitamente. Oggi invece la storia è quella che trasforma i documenti in monumenti. Questa è la frase che però, ragazzi, mi fa dubitare che lui parli tanto bene, cioè che perché qua vedete che, come dire, traspare, non è una cosa con cui si può essere tanto d'accordo, questo trasformare i documenti in monumenti, quindi suppongo che sia. Allora, prima si trasformavano i monumenti in documenti, ora si trasformano i documenti in monumenti, e che laddove si decifravano delle tracce lasciate dagli uomini e si scopriva in negativo ciò che erano stati, presenta una massa di elementi che bisogna poi isolare, raggruppare, rendere pertinenti, mettere in relazione e costituire in insieme. C'era un tempo in cui l'archeologia, come disciplina dei monumenti muti, delle tracce inerti, degli oggetti senza contesto, delle cose abbandonate dal passato, tendeva alla storia, ecco perché usa il termine archeologia, forse perché l'ha usato anche. Quindi l'archeologia tendeva alla storia e acquistava significato soltanto mediante la restituzione di un discorso storico. Si potrebbe dire, giocando un poco con le parole, che attualmente la storia tenda all'archeologia, alla descrizione intrinseca del monumento. Attenzione, qui c'è uno dei primi passaggi, descrizione intrinseca del monumento. L'archeologia foucaultiana non è l'archeologia dell'archeologo classico, il quale comunque mi dirà sempre: questo manufatto è inserito in questo periodo, è collegato con questa certa cultura materiale, con questi documenti scritti se ce ne sono, con questi poemi, con queste leggende orali tramandate, eccetera eccetera. No, lui vuole fare una visione intrinseca del monumento, la trasformazione del monumento in documento, quindi potrebbe voler dire questo, che è la trasformazione intrinseca. E quindi poi fa una serie di conseguenze e poi si arriva a una parte che vi voglio leggere più chiaramente, perché questo è un corso dedicato principalmente al tema del soggetto, e quindi qua il tema del soggetto verso la fine dell'introduzione dell'archeologia riemerge in modo chiaro, e molto chiaro, e ci si chiede come mai, dopo che Foucault aveva scritto il locale nel 69, potesse ancora essere accusato anni dopo di avere voluto eliminare il soggetto dalla sua indagine. Adesso vediamo che cosa dice. Questa ve la leggo tutta perché è dopo. È il capoverso che comincia con attualmente questo mutamento epistemologico. Attualmente questo mutamento epistemologico della storia non è ancora concluso. Tuttavia non data da ieri, dal momento che se ne può probabilmente far risalire la prima fase a Marx. Ma ci è voluto molto perché raggiungesse degli effetti. Ancora ai nostri giorni, soprattutto per la storia del pensiero, esso non è stato registrato né ripensato. Quindi vuol dire che questa nuova storia ancora non c'è tanto, insomma, no? Mentre hanno potuto esserlo altre trasformazioni più recenti, per esempio quelle della linguistica. Come se in questa storia che gli uomini riscrivono con le loro idee e le loro delle loro conoscenze, fosse stato particolarmente difficile formulare una teoria generale della discontinuità, delle serie, dei limiti, delle unità, degli ordini specifici, delle autonomie e delle dipendenze differenziate. Come se, laddove si era stati abituati a cercare delle origini, a risalire all'infinito la linea delle ascendenze, a ricostituire delle tradizioni, a seguire delle curve evolutive, a progettare delle teleologie e a ricorrere continuamente alle metafore della vita, si provasse una singolare ripugnanza a pensare alla differenza, a descrivere degli scarti e delle dispersioni, a dissociare la forma rassicurante dell'identico. Quindi questo farà l'archeologia foucaultiana. Si metterà a pensare alla differenza, non vorrà hegelianamente ricondurre la differenza all'unità dopo la prima fase di confronto, di mostra di muscoli, poi arriva sempre la sintesi. Non ce ne sarà sintesi, le differenze rimangono differenze, devono essere pensate. La sua archeologia descriverà degli scarti e delle dispersioni, descriverà dei movimenti in cui qualcosa esce da una sorta di linea, in cui qualcosa si disperde. La parola dispersione è una parola chiave dell'archeologia del dispersione. Io sono felice che una delle mie parole chiave sia disseminazione, perché probabilmente senza saperlo, ma in qualche maniera veniva da lì. A dissociare la forma rassicurante dell'identico. Quindi l'archeologia del sapere dissocerà la forma rassicurante, non sarà l'identità di cui parla l'archeologia, ma ovviamente la differenza. O più esattamente, come se si trovasse difficoltà a teorizzare, a trarre le conseguenze generali e persino ad esumere tutte le implicazioni possibili da quei concetti di soglia, threshold, di mutazione, non so come si dice in tedesco, di mutazioni, di sistemi indipendenti, di serie limitate che nella pratica vengono usate dagli storici, come se avessimo paura di concepire l'altro all'interno del tempo del nostro pensiero. Come se avessimo paura di concepire l'altro all'interno del tempo del nostro pensiero. Voi non potete concepire l'altro se avete una sintesi, se usate il pensiero dialettico, perché l'altro non ci sarà più quando la maledetta dialettica avrà fatto il suo maledetto corso e quando la disgraziata sintesi avrà sintetizzato, fatto crashare insieme la partita della materia. Voi non avete più l'altro, al di là delle migliori intenzioni che hanno avuto sia Hegel che Marx, il pensiero dialettico è un pensiero che distrugge la differenza, distrugge l'alterità, distrugge la dimensione dell'altro. L'altro non può esistere all'interno di un pensiero dialettico. Ecco perché oggi non si può più essere dialettici, dice Foucault, e io sottoscrivo. Allora si chiede, ma perché è successo tutto questo? Perché abbiamo così paura a fare tutte queste cose? Adesso arriva. Una ragione c'è. Se la storia del pensiero potesse rimanere il luogo delle continuità ininterrotte, se in continuazione allacciasse delle concatenazioni che nessuna analisi potesse sciogliere senza astrazione, se attorno a tutto ciò che gli uomini dicono e fanno tramasse delle oscure sintesi che la anticipano, la preparano, la conducono all'infinito verso il suo futuro, allora essa costituirebbe un rifugio privilegiato per la sovranità della coscienza. Eccolo il punto. Ecco perché Foucault non la vuole questa cosa. Perché se la storia del pensiero si potesse fare così, questo sarebbe il luogo privilegiato per la sovranità della coscienza. Ci sarebbe qualcosa chiamato coscienza, che avrebbe una autonomia, che avrebbe una sostanzialità, sarebbe veramente quello che sta sotto alle cose, un bel fondamento rassicurante, e noi in questa cosa potremmo... La storia continua è l'indispensabile correlato della funzione fondatrice del soggetto. Ma porca miseria, ma è scritto in modo così chiaro. La storia continua è l'indispensabile correlato della funzione fondatrice del soggetto. Come si fa a dire che Foucault non ha mai affrontato il problema del soggetto? Lo ha decostruito ben più fortemente di Derrida, anche più fortemente di Deleuze. Qui c'è il termine serie, ve lo ricordo solo di passato, che è uno dei termini chiave di sia Deleuze. Nel 68 era uscito La logica del senso di Deleuze, che è tutto basato sulla nozione di serie, eh? Quindi ci sono delle cose, come dire, comuni. Ma Foucault la fa più radicale ancora. La storia continua è l'indispensabile correlato della funzione fondatrice del soggetto, la garanzia che tutto ciò che gli è sfuggito gli potrà essere reso, la certezza che il tempo non disperderà nulla senza restituirlo in una unità ricomposta, la promessa che il soggetto potrà un giorno, sotto la specie della coscienza storica, impadronirsi nuovamente di tutte le cose che la differenza tiene lontane, riaffermare il proprio dominio su di loro e trovarvi quella che si può ben chiamare la sua dimora. Fare dell'analisi storica il discorso della continuità e fare della coscienza umana il soggetto originario di ogni divenire e di ogni pratica costituiscono i due aspetti di uno stesso sistema di pensiero. In esso il tempo viene concepito in termini di totalizzazione e le rivoluzioni non rappresentano mai altro che delle prese di coscienza. Qua il marxista, come ovvio, si rivolta e dice: ma come? Aveva tutto perché la gente prenda quelle cose. No, le rivoluzioni non si deve prendere. La presa di coscienza è un'illusione. Le rivoluzioni accadono perché vuol dire che si mettono in gioco delle altre differenze, che si fanno clashare, che si fanno scontrare tra loro e dalle scintille che esce fuori, che non è una sintesi, che è nuovamente una nuova geografia della dispersione. Chiarito così la questione metodologica e sorvolo sulla questione dello strutturalismo, dice: vabbè, ma che cos'è l'enunciato? Perché lui quindi dà una prima descrizione del, diciamo, discorso proprio in termini di discontinuità. Bisogna dunque tenere in sospeso tutte quelle forme preventive di continuità, tutte quelle sintesi che non vengono problematizzate e a cui si accorda a pieno valore. Sono un geniale perché sono rientrato nel tempo che avevo pensato senza... No, ragazzi, voi non sapete che acrobazie bisogna fare per dirvi le cose, per dire le cose fondamentali anche a diciamo, se stessi. Allora, il progetto, come lo delinea nelle primissime pagine, adesso vi leggo qualcosa delle prime pagine, poi ve ne parlerà meglio lui, ma insomma, perché sennò non si capisce più nulla. Il suo progetto è quello di una descrizione pura degli avvenimenti discorsivi come orizzonte per la ricerca delle unità che vi si formano. Questa descrizione, poi vedremo meglio dopo, si distingue facilmente dall'analisi della lingua. Quando ho parlato prima di svolta linguistica o di diciamo, maggiore esplicitazione linguistica degli interessi foucaultiani, non voglio dire affatto che Foucault utilizzi gli stessi strumenti della linguistica. Al contrario, vedremo adesso proprio nella sua definizione di enunciato, che Foucault si tiene molto alla larga, molto distante, sta bene attento. Purtroppo l'appunto che si può fare anche in questo caso è che i termini usati sono terribilmente equivoci, perché il termine enunciato, adesso non c'ho il termine, ma sarà, cos'è? Enoncé, in francese, enoncé, eh? Quindi l'enoncé francese, l'enunciato italiano, lo statement inglese, ancora una volta non mi ricordo come si dice in tedesco, sono tutte e tre parole che si riferiscono ad un concetto che ha già il suo significato in linguistica e in logica. Metà delle cose che vi leggo tra un po', che vi spiego tra un po', sono esattamente, cioè Foucault le destina a mettere gli agi e dire: ma non è un concetto come, non è l'enunciato come è in logica, non è l'enunciato come è in linguistica. Allora lui dice: ma perché l'hai chiamato così, potrei trovare un'altra parola? Però effettivamente ci sono una serie di motivi per cui è giusto che abbia per certi versi mantenuto quel termine, spiegando meglio. Allora, quindi linguistica vuol dire che Foucault fa certamente un'analisi, è cosciente della linguisticità del proprio materiale, ma e qui sta secondo me la sua genialità, riesce a trattarlo in un modo non, diciamo, linguistico. Non usa gli strumenti linguistici, non usa gli strumenti della logica. Poi parleremo un attimo, purtroppo qualche minuto lo dovrò dedicare a una svolta che nel 66 era recentissima nella linguistica, nella filosofia del linguaggio mondiale, cioè la teoria dei cosiddetti atti linguistici, speech acts, che si erano delineati per la prima volta. Il primo libro in cui si parla di atti di linguistici è How to do things with words, come fare cose con le parole, di John L. Austin, uscito dopo la morte di Austin nel 1960 o 61. La teorizzazione di John Searle, americano, verrà molto dopo, con il libro più grosso, Speech Acts, che sistematizza le cose, ma quando Foucault scrive erano meno di 10 anni, che quindi Foucault intanto è molto aggiornato, legge molto filosofi, tutti questi filosofi analitici. Qua c'è una pessima traduzione, ragazzi, che credo sia rimasta uguale. Tutte le volte che voi leggete analisi con la A maiuscola o analisi tra virgolette, non so se qualcuno di voi l'ha già letta, l'archeologia o la sta leggendo, purtroppo non ci capite nulla, dovete leggere filosofia analitica, quello che tutti, insomma, diciamo, in Italia si chiama analytical philosophy, ovvero non è l'analisi, che non vuol dire un cazzo. Questa è una questione del traduttore, che evidentemente aveva ai tempi scarsa familiarità con questa, insomma, quindi leggete filosofia analitica. Allora, analogamente, dice lui, si vede come questa descrizione del discorso si contrapponga alla descrizione del pensiero, ma in realtà io volevo leggervi un'altra cosa, io volevo leggervi quello che aveva scritto, che bisogna, perché è quando lui introduce questo concetto di prima di discorso e poi di enunciato, dice che bisogna quindi tenere in sospeso, è una ripresa della epoca fenomenologica, sospendiamo, mettiamole per un attimo da canto, tutte le forme preventive di continuità, tutte le sintesi che non vengono problematizzate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le nozioni, per esempio gli oggetti di opera, di libro, eccetera, scompaiono dall'analisi foucaultiana. L'archeologia vuole trovare, non vuole, come dire, rompere l'unità fittizia di questa, no? di l'opera, il libro, eccetera, vuole ritrovare, come dire, il discorso foucaultiano circola all'interno di queste unità già date, che sono le unità del senso comune, insomma, io leggo un libro, lei il libro, okay, Foucault, eccetera, ma in realtà il discorso foucaultiano è un insieme di cose che transitano da qui a, come dire, Deleuze, magari a dei documenti anche meno, non a libri di filosofia, ma a un altro genere, come dire, di libri, ad altri documenti, molta parte, questo era già nelle parole delle cose, più ancora lo sarà in opere successive, per esempio nella volontà di sapere, eccetera. Allora voi troverete citati scrittori che non sembra c'entrino nulla con la filosofia, con la storia delle idee, eccetera, eccetera, scrittori di manuali, cose, questo c'era già anche nella storia della follia. È qua che è in questa cosa che Foucault cerca di ritrovare la questione del, diciamo, discorso. Allora, dice, ci si deve chiedere a che cosa possa servire tutto questo accantonamento di tutte le unità accettate, e se non si tratti a conti fatti di ritrovare le unità che in partenza si era finto di mettere in discussione. In pratica, la sistematica abolizione delle unità già date permette anzitutto di restituire all'enunciato la sua singolarità di evento, adesso su questo riflettiamo un attimo, e di dimostrare che la discontinuità non è soltanto uno di quei grandi accidenti che creano le faglie nella geologia della storia, ma già anche nel semplice fatto dell'enunciato. Lo si fa sorgere nella sua eruzione storica e ci si preoccupa di far risaltare solo l'incisione che esso produce, la sua irriducibile, molto spesso minuscola, emergenza. Amos, la volta scorsa, vi ha già dato un'anticipazione della nozione più tarda di Foucault di dispositivo, e se i più attenti di voi ricorderanno che anche in quella definizione c'è la parola emergenza. La parola emergenza, come la parola irruzione, come la parola dispersione, è una delle parole chiave di Foucault. Allora, che cos'è quindi questo enunciato per Foucault? Poi si spiegherà che non è una frase, che non è una frase né in senso grammaticale né in senso logico. che non è, e poi lui dice che non è neanche un atto linguistico, molto bene, invece è molto simile a quello che Austin e Searle definiscono come atti linguistici, e su questo vi dirò le ultime cose di questa come dire lezione. Ma quello che vorrei mettere in luce adesso è che, primo, Foucault ci dice, attenzione, la discontinuità non sono soltanto le grandi catastrofi, la rivoluzione francese, il passaggio dal medioevo all'epoca moderna, catastrofe durata tre secoli, a quanto ci spiegano le parole delle cose, forse anche giusto, insomma. No, dice, la discontinuità è ciò che accade tutti i giorni, quotidianamente. La nostra vita è fatta di discontinuità, è fatta di salti, è fatta di faglie, è fatta di interruzioni. Non siamo noi che ci auto... Qui la grande lezione di Hume, cioè Hume già l'aveva detto, dice non esiste qualcosa chiamato io, qualcosa chiamato causa ed effetto, ma dove? Siamo noi che rendiamo lisce, rendiamo, come dire, le cose trasparenti e lisce, ma invece sono aggrovigliate, opache, discontinue, costantemente discontinue. Ecco, allora voi capite che quando Foucault parla, diciamo, l'enunciato foucaultiano è qualche cosa, è difficile dire che una frase sia un evento, è vero? O che una proposizione in senso logico, peggio ancora, sia un evento. Nella logica non ci sono eventi, come nella matematica, non c'è nessun evento, c'è un regno di essenze immutabili e cristalline che permane inalterato dalla notte dei secoli fino ad oggi, o che ogni tanto cambia, ma in modo continuo, nella logica. Ma neanche nella linguistica ci sono degli eventi, perché anche la linguistica strutturale, che pretende di fotografare che questa è la struttura, eccetera, però poi sa che questa struttura si evolve, ma come? Si evolve lentamente, in tempi lunghi, in tempi non si spiega mai. La linguistica non ci spiega e non ci può spiegare, naturalmente, perché l'uomo parla come parla, perché gli esseri umani hanno articolato in forme così varie e così diverse questa facoltà di linguaggio che tutti abbiamo, che tutti condividiamo, che è l'unica cosa che possiamo definire come natura umana. Se c'è una natura umana, se c'è qualcosa che si può chiamare vagamente natura umana, probabilmente questa non è altro che la facoltà di linguaggio. Non esiste nient'altro che accomuna gli esseri umani. Non c'è nessuna positività, ma la facoltà di linguaggio non è una positività nei termini foucaultiani. E allora quindi quello che interessa a Foucault, ancora una volta, quando uno dice la dimensione della discontinuità, vuol dire la dimensione dell'evento, la cosa inattesa, irripetibile e urgente che accade. Non c'è un principio di causalità, siamo sempre nell'ambito di Hume, ma se fossimo mai costretti con un coltello alla gola a dire ma perché accadono gli eventi, l'unica risposta che avevo ovviamente è perché era urgente che accadessero, perché c'era un'urgenza. Se non c'era l'urgenza non sarebbe accaduto niente, se non c'era l'urgenza, se non c'era un'urgenza di Caronia e un'urgenza anche di Amos, forse questo seminario non ci sarebbe stato. Questo seminario è stato un evento, è un evento, e tutte le sere, ogni volta, ogni parola che Amos io pronunciamo è un evento, è una discontinuità, è una rottura. Siamo ognuno dei due in modo evidentemente diverso, con uno stile diciamo diverso, ma ognuno dei due è divorato da un'urgenza. Nel caso mio si vede di più, perché semplicemente io sono più istrione e quindi si vede, insomma, perché Amos è fatto diverso, ma c'è un'urgenza anche sua, e in ognuno di voi c'è un'urgenza di stare a sentire, di dire, di fare. L'urgenza è l'urgenza dell'evento. Allora, che cosa ci frega a noi delle grandi costruzioni, delle grazie, cioè questo adesso sto insomma tirando, quindi probabilmente il povero Foucault si rivolterà nella tomba, ma insomma, però io credo che questo voglia dire al fondo tutta questa analisi, significa questa: restituire all'enunciato la sua singolarità di evento e dimostrare che la discontinuità non è soltanto quello che abbiamo detto, ma è ciò che avviene. E quindi diciamo l'enunciato detto, quando Foucault dice che l'enunciato è l'unità l'unità elementare del, come dire, discorso, però poi passa tutte le parti successive di quelle pagine a metterci in guardia dal non considerarlo all'interno di una concezione né logica né linguistica come l'atomo. Non è l'atomo, dice, non è il minimo costituente dotato di significato che ha. Non è una frase, non è una proposizione, leggeteveli bene questi cose per conto vostro, perché so che ce la fate, inutile che vi spiego, perché non ho il tempo, diciamo, di farlo. Vi metto solo sull'avviso, sul terzo punto che lui fa, che lui chiama, io ce l'ho a pagina 110, non so nella vostra edizione dove diavolo sarà, la terza ipotesi che fa è che siano, e qui usa il termine inglese anche, quindi diciamo, dopo aver spiegato che che l'enunciato non può essere considerato come l'equivalente di una frase in senso, io uso i termini che usa lui e poi sono ambigui, insomma, comunque frase in senso grammaticale o proposizione in senso logico, magari vi chiarisco brevissimamente che cosa intendono i logici per proposizione, perché non so se la tesi sia la stessa roba, proposizione e frase. Allora, in linguistica una frase, la frase è diciamo effettivamente il mattone di qualunque virgolette testo sia scritto, cioè di qualunque, perché è la parte più piccola del discorso, non in senso foucaultiano, dotata di significato. Se io dico la parola cane, non vuol dire, sì, vuol dire, certo, come dire, designa, denota un certo oggetto, ma non ha nessun significato, non ha nessun meaning, non ha nessun Sinn in tedesco, non ha nessun signifié in francese. Perché sia un minimo significato, io devo predicare qualcosa del cane, vuol dire il cane è bianco, il cane morde, il mio cane è un fetentone, ci deve essere un verbo implicito e esplicito, questa è la frase. Una proposizione in logica è qualcosa di molto più astratto, certo se poi la andiamo a scarnificare, ma nel primo livello della logica formale, la logica dai tempi di Foucault, dai tempi di Frege, che dalla filosofia è transitata dentro la matematica, rappresentando una sorta di ponte di congiunzione fra i due mondi, insomma, però è comunque matematizzata la logica. Allora, nella logica formale, la logica proposizionale è il primo livello, il più basso, quello nel quale si esaminano i rapporti fra le proposizioni senza analizzarle ulteriormente. E come si definisce una proposizione? In termini logici, una proposizione è ciò che è suscettibile di essere o vero o falso, cioè dotato di quello che loro chiamano un valore di verità. E poi ci fanno le tabelline di verità, è una cazzata, è una roba formale, anche insomma, stupidina, la logica formale a livello delle proposizioni. Poi quando cominciamo a fare i predicati, allora si va un po' più nel cosmo. Insomma, diciamo, quindi a livello proposizionale, quando Foucault parla di proposizioni, voi pensate una roba misteriosa che però è suscettibile di essere vera o falsa, su cui io posso sempre dire è vera oppure è falsa. È chiaro che ci saranno un sacco di limiti, un sacco di casi controversi, eccetera, eccetera. Però a un certo punto invece c'è questa, e chiudo su questo, quanto tempo ho? Ci vogliono 10 minuti, un quarto d'ora per spiegarlo bene. Perché a un certo punto, ed è una delle parti più, diciamo, interessanti, Foucault intanto dimostra, come vi ripeto, di essere bene aggiornato su studi di filosofia del linguaggio abbastanza specifici, ma soprattutto una cosa, diciamo, curiosa, perché Foucault vive in Francia ed è considerato anche dopo la sua morte, eccetera, un virgolette continentale, cioè un appartenente a quelle scuole di pensiero, marxismo, fenomenologia, ermeneutica, eccetera, eccetera, che come dire, sono impegnate in un superamento della tradizione metafisica dell'Occidente, per così dire, dall'interno, cioè scavando la fossa sotto i piedi della metafisica, ma standole vicino, scavandole i piedi sotto. La filosofia analitica, i filosofi analitici, l'altra grande componente corrente della filosofia novecentesca, che si può pensare a che sia più o meno, diciamo, l'erede più della tradizione degli empiristi del XVII e XVIII secolo. Ci sono anche molti analitici che vivono nel continente, però in genere vivono coi piedi in due scarpe, come Wittgenstein, che nasce, insomma, diciamo, comincia a lavorare a Vienna e poi finisce in Inghilterra, quindi insomma qualche... I filosofi analitici sono quelli che anche loro vogliono scardinare la metafisica, ma come fanno? Non gli scavano la terra sotto i piedi, perché sono convinti che la metafisica sia già auto di tutta da sola, o che si distruggerà da sola, quindi stanno fuori, gli fanno Marameo, Sberleffi, Ricchi Premi e Cotillon, gli fanno i fischietti, quelle robe lì, insomma, la pigliano in giro, la dileggiano, il filosofo analitico dileggia la metafisica e si occupa invece semplicemente, per lui la filosofia ha come unico scopo quella di commentare diciamo le cose serie che fanno altre, diciamo, discipline, per esempio la linguistica o le scienze dure. Questa è la differenza, ve l'ho fatta ovviamente molto tra l'accetto. Wittgenstein, in questo senso Wittgenstein non è affatto un analitico, ma neanche Austin, neanche Searle, cioè, però questa è, ora però stranamente Foucault parla, in così dedica in questo libro e poi in uno dei corsi, credo non avrebbe neanche del soggetto, vari anni più tardi torna in uno dei corsi al Collège de France su questa questione, vuol dire che li aveva studiati bene, e c'è anche un carteggio con John Searle, di cui Dreyfus e Rabinow danno un breve conto in una nota a un certo punto, perché pare che poi dicono che loro hanno delle lettere che io non ho visto, quindi però mi fido di loro, per cui a un certo punto pare che comunque lui si sia. Allora, però vi spiego in breve cos'era questa filosofia, perché insomma, diciamo, questa corrente chiamata degli aptis linguistici, che, se vi ripeto, prende le mosse da un vecchio filosofo di Oxford, John L. Austin, il quale muore nel 59 o nel 60, non mi ricordo, e alla sua morte c'è pronto questo piccolo libro molto breve, How to do things with words, come fare cose con le parole, How to do things with words, come fare cose con le parole, che in italiano è edito, mi sembra, da Marietti. Partendo da lì poi c'è tutta una serie di altri, Grice, eccetera, eccetera, che, e poi quello più importante è John Searle, che invece è un americano, che negli anni 80 mi sembra scrive il grande, ecco là il nostro poster, scrive invece il libro Speech Act Linguistics. Allora ve la faccio breve, ma Austin parte dall'esame di alcuni enunciati, non in senso foucaultiano, di alcune frasi, di alcune produzioni verbali, che sono, diciamo, quelli che lui chiama enunciati performativi, cioè sono alcune frasi. In genere è, diciamo, nella concezione comune, il linguaggio cosa fa? Descrive delle cose. L'ironia stasera è particolarmente noioso, punto. Descrizione di uno stato di cose. Questo lì, sul tavolo ci sono vari libri. Questo cosa è ne... Il linguaggio descrive il mondo, descrive il mondo. Ci sono delle cose nel mondo, il linguaggio le, diciamo, rispecchia. Poi certo, ci sono delle altre cose, le domande come diavolo le mettiamo? Cioè, che ore sono? Non descrive niente questa frase. Peggio ancora quando dico, Marcella, scusa, mi chiudi quella porta? Una richiesta, con le parole voglio far fare qualcosa a degli altri. Ma la cosa più terribile è quando due persone si sposano. Il prete o l'ufficiale di stato civile cosa fa? Cosa dice? Vi dichiaro marito e moglie, accidenti. Dice una frasina, dice solo una frase. Poi certo, c'è un certo contesto, bisogna fare i documenti, avere la fede, scambiarsi, darsi il bacino, però l'ufficiale di stato civile o il prete dicono vi dichiaro marito e moglie, con una frase lui ha cambiato la realtà. Prima di quella frase quei due non sono marito e moglie, dopo quella frase lo sono. Il governo degli imperi centrali austro-ungarico, tra l'Italia 1914, manda una bella nota diplomatica all'Inghilterra, alla Francia, alla Russia, eccetera, e dice l'imperatore, il serenissimo imperatore dell'impero regno di Austria-Ungheria, eccetera, dichiara la guerra, attenzione, sono parole, è una frase, dichiara la guerra ai seguenti paesi. Prima di quella frase non c'era guerra. C'era casino, tensione, incomprensioni, ma non c'era la guerra. Dopo quella frase c'è la guerra. Ci sono delle parole, ci sono delle frasi che cambiano la realtà, che quindi hanno una sostanza, dice Austin, no, dicevano alcuni linguisti prima di lui, che cambia la sostanza delle cose, fanno qualche cosa, sono delle performance, hanno degli effetti, quindi sono enunciati o frasi performative. Bene, in questo suo breve libretto, ve la faccio breve, Austin comincia ad esaminare questo problema e scopre nel corso di poche pagine, il libro è molto bello, non è neanche tanto difficile, certo, bisogna impegnarsi un po', chi volesse approfondire lo può fare, il libro di Coso è molto piuttosto, il libro di Searle è molto piuttosto. Nel corso del libro a un certo punto Searle scopre che non è vero che questi enunciati performativi sono poi tanto diversi dagli altri, che in tutto il linguaggio, che tutto il linguaggio ha una dimensione in qualche maniera performativa, che ogni volta che io parlo cambio lo stato di cose del mondo. Anche questa sera, io ho descritto, amo se io abbiamo descritto ciò che sta scritto in alcuni libri scritti da un certo signore chiamato Michel Foucault. Non abbiamo fatto nulla, però probabilmente voi poco o tanto uscite cambiati questa sera. Giuseppe esce incazzato con una biscia perché gli abbiamo maltrattato Marx, un altro dice non ho capito niente, un altro... Voi uscite cambiati da quello che... Quindi nel linguaggio, e quindi diciamo Austin finisce con questa grande tripartizione e dice ogni enunciato, ogni frase in senso linguistico, lui è un linguista quindi non usa enunciato nel senso linguistico, ogni frase, quindi in ogni frase ci sono tre diversi aspetti. C'è un aspetto locutorio, consiste nel fatto che io emetto, che io faccio, che io pronuncio questa frase. Quando io dico ogni frase ha un aspetto locutorio, in questa frase c'è un aspetto locutorio, metalocutorio in questo caso, perché però è in qualche maniera è sempre locutorio. Poi c'è un altro aspetto, alcune frasi, non tutte, hanno un aspetto perlocutorio, sono le frasi con le quali si chiede o si ordina a qualche altro di fare qualche cosa, sono delle frasi che causano in altri un cambiamento di comportamento. Stai zitto, esci da questa stanza, aprimi quella porta per cortesia, mi presti il tuo temperino, c'è una, non tutti, ora, tutte le frasi hanno una dimensione locutoria, alcune ma non tutte hanno una dimensione perlocutoria, alcune frasi hanno una dimensione perlocutoria nascosta, dice Austin, anche se non si prova l'espressione, ma la cosa più importante è la terza, quella che sta in mezzo, che Austin inventa il termine illocutorio, sono uguali, locutori, illocutori, perlocutori. Allora, illocutorio, dire qualche cosa, diciamo, la sostanza grezza da un punto di vista linguistico, diciamo, della frase, soltanto perché è stata detta, c'è stata una locuzione, qualcuno ha parlato o quella cosa lì è stata detta, qualcosa è stato detto. Per locutorio una certa frase ha indotto qualche altro a fare qualcosa, a creare un cambiamento nello stato di cose del mondo. Ma il terzo aspetto, quello illocutorio, è quello più interessante, che secondo Austin è presente pressoché in ogni frase. Ogni frase ha un aspetto locutorio e uno illocutorio. L'aspetto illocutorio di una frase sono i cambiamenti che per il solo fatto che quella frase è stata pronunciata ha indotto nel mondo. Vi segnalo en passant soltanto questa cosa. Allora, per quanto riguarda Foucault accenna a questa cosa, però poi nelle pagine delle prove cose dice... gli sembra pensare diverso perché lui dice l'enunciato, come lo intendo io, può essere una proposizione in senso logico? No. Può essere una frase in senso grammaticale? No. Può essere un atto linguistico, uno speech act, cioè può coincidere con l'aspetto illocutorio di una... E lui dice di no. Però se ci pensate bene, certo, forse non sono esattamente la stessa cosa, ma se, diciamo, se nel linguaggio c'è un aspetto di evento, di qualcosa che accade, c'è una urgenza nel senso foucaultiano, se c'è, esso è concentrato quasi esclusivamente nell'aspetto illocutorio, perché quello perlocutorio c'è solo in qualche caso, non nell'aspetto locutorio. La locuzione in quanto tale è una astrazione, dire io parlo, appunto, non si sa che... Ma se è vero che l'illocuzione, secondo Austin e i teorici dello speech act, è l'aspetto dinamico del linguaggio, cioè i cambiamenti che il linguaggio in qualche maniera apporta nel mondo, direttamente o indirettamente, questo è qualcosa di molto simile a quello che dice Foucault quando dice l'enunciato è una urgenza, l'enunciato è un evento, l'enunciato è una discontinuità. È qui che è nell'aspetto illocutorio prevalentemente che sta, se c'è un aspetto. Chiudo. Perché? Perché tutta questa cosa, che poi voi vi guardate meglio, vi leggete per conto vostro, eccetera, però ci tengo a, come dire, sottolineare questa cosa. Primo, c'è una pagina della cosa in cui Foucault dice l'enunciato è l'evidenza del linguaggio effettivo. Lo sforzo di Foucault, e qui vedete che torno alla metafora che vi ho detto prima, non è quello di scavare sotto slovite del linguaggio per trovare una sorta di verità nascosta. Al contrario, Foucault è molto fedele al programma di Hofmannsthal che la vera profondità sta nella superficie. Lui sta alla superficie, si guarda bene dall'andare nel profondo, si guarda bene dal fare pasticci con i segreti, con le dimensioni, con le cose che stanno nascoste sin dalla origine del mondo, con i complotti pluto-giudaico-massonici, con la lotta di classe intesa come motore della storia, con il soggetto trascendentale di Husserl, con tutte queste robe qua che sono robe che non si vedono, che stanno sotto, perché stanno sotto... No, lui vuole parlare solo di quello che si vede, attenzione, ma... Già in quello che si vede, ci sono vari punti in cui dice guardate che l'enunciato è ciò che ci sfugge perché è troppo visibile. Dio mi guardi, non voglio assolutamente non voglio assolutamente sostenere che ci sia nulla di analogo tra Foucault, ma pensateci bene, questo è molto simile alla lettura che dà Lacan della lettera rubata di Poe. Quando dice guardate che il vero luogo dello scambio non sta in una dimensione nascosta, è ben visibile, è fuori, siamo noi che con la nostra fantasia, col nostro immaginario non riusciamo a comprendere quella dimensione simbolica, semplifico molto, ma questa è la lettura foucaultiana che è la Lacan dà del Codo di Poe. C'è una certa similitudine da un certo punto di vista, come c'è una ovvia similitudine nelle cose che ha detto prima Amos e che tornano pure qua sul deperimento del soggetto come elemento fondante del linguaggio, del lavoro, delle ricchezze. Non siamo noi che parliamo, è il linguaggio che ci parla, non siamo noi siamo soggetti economici, è l'economia che le ricchezze che ci agitano, non siamo noi che viviamo, è la vita che ci vive. Ecco, allora in tutto questo, però attenzione, lo ripeto, e troverete in moltissime, 10.000 volte, molte volte in questo testo, che comunque adesso siete ovviamente, perché potete farlo anche se non si possono leggere, anche se non avete letto la prima parte, vi leggete tanto l'introduzione che è facile, poi i primi tre capitoli della seconda parte, 1, 2, 3, definire l'enunciato, la funzione enunciativa e la descrizione degli enunciati, perché poi gli ultimi due ve li farà insieme con la prima parte Amos la prossima volta, cioè tra due, quitando il tempo ce l'avete perché passano due cose. Bene, in tutte queste cose voi trovate spesso Foucault che dice, attenzione, l'enunciato è ciò che è alla superficie, è ciò che è visibile, non è il non detto, non è il segreto, non è una dimensione nascosta, è una dimensione visibile. Perché non la vediamo? Perché abbiamo portato a vederla? Perché è troppo visibile, perché sta troppo all'esterno. Ma soprattutto, cosa che Foucault non dice in modo esplicito, ma ve lo dico io perché è una conseguenza sin troppo ovvia, l'enunciato non è ciò che il linguaggio dice di se stesso, non è ciò che il soggetto dice di se stesso, perché è vero, cioè in questo senso Foucault condivide il punto di vista, il punto di partenza di Marx, di Freud, eccetera. È ovvio che non dobbiamo prendere sul serio ciò che il soggetto, diciamo, la storia che il soggetto dice di se stesso, la sua auto, le autorappresentazioni e le storie che il soggetto racconta a proposito di se stesso sono ovviamente neanche menzogniere, sono fuorvianti, sono degli effetti di ritorno di quella funzione rappresentativa, ma è la funzione rappresentativa che lui vuole indagare, non pretesi segreti, non pretese essenze, non pretesi nuclei incandescenti. Non c'è un centro della Terra nelle pagine brutali, neanche in questo libro, anzi particolarmente in questo libro. E se poi arriveremo alla fine di questa lezione scopriremo che non c'è probabilmente neppure un sistema foucaultiano e neppure un metodo foucaultiano, e in questo Foucault si rivelerà davvero, come speriamo di mostrarvi con le prossime lezioni, anche con quelle finali, l'unico vero erede di Nietzsche nel pensiero occidentale. Grazie. Chi mi dà 21,50?